oggi quando ho giocato una commissione. Non legge l'Urbana, c'è che poi qua in campagna comincia a fare un paio di lavagna contro me, io quello sì. Però salve la mattina, capito? Oh, che palle! Guidare la macchina, fare chilometri, oh! Lo so, comincia a fare più gana. Ma lo voglio consiglio. Dopo rilassati, rilassati e. Se ti vuoi fare un viaggetto vai, se ti vuoi fare goditela un po', perché tanto poi non ne abbiamo niente, goditela un po' più quando puoi, goditela, perché il lavoro l'hai fatto, poi basta. No, Manto, io mi faccio un po' di lavori, fai da te, capito? Qualche parente mi chiede una maglietta, mi chiede un mobiletto, mi chiede quello, io lo faccio, ho un sacco di attrezzatura che ho comprato, quindi. E infatti Claudio mi chiama, mi dice, Carboni, ti faccio un po' di attrezzatura. E vabbè, comunque, no, ma fermarmi del tutto no, perché se mi fermo del tutto forse la fine mio zio. È diventato una larva. Si cade in pensione, si deve andare per 90 anni. No, non riesce mai a camminare. No, no, no, no. Io sono un tipo molto movimentato. Faccio quello da una parte all'altra, sì, qualche viaggetto non lo faccio, perché no. Non sono mai fermo. Mi piace girare, mi piace vedere, capito? Fare i lavoretti fa da te. No, per quello, grazie a Dio, non sono mai con le mani in mano. Sì, sì, no, vabbè, qualche cosa così durante la settimana, ma per passare il tempo, mi. Però, a me mi piace pure, cioè, a me mi piace anche quando comincia il periodo, andarmene al mare, c'è in posti belli, starmene tranquillo, però c'è un po' io faccio, quando c'è da lavorare si lavora però, ma a me piace molto, la verità ti dico, piace molto. A me piace anche da pescare, vedi, io ogni tanto cambio sempre il mio tenore, perché prima soffrivo un po' di cosa, come si dice, di ansia, mi ricometto un po' di pastiglie assolutamente. Guarire te stesso, e cioè mi pensi tutte altre cose, ti cerchi un hobby, te lo fai, ogni tanto te lo cambi, e infatti ho fatto, grazie a Dio pazzia non ho mai preso, sto bene, niente, mi sono dato un biliardo, sono andato il mio, due medaglie d'oro, cambiato biliardo, computer marachino, moto la luna, eccetera, insomma, poi pescare, ogni tanto cambia, capito? Anni, che poi cambio, poi sempre cose diverse. E poi torni da capo. Insomma, ti distrai e sei tranquillo, e non hai più problemi. E allora, no, una volta che vai in pensione, logico, ti devi tenere occupato. Però è anche bello, cioè, magari, come ho detto, è anche bello, magari oggi fai una cosa, d'inverno, vabbè, d'inverno un po', dedichi a fare queste cose per non perdere l'abitudine, soprattutto d'inverno. Ma d'estate è anche bello girare, fare, è anche bello così, vai a un giorno vai a pesca, un giorno casa di Nandi a Water Paradise e ti godi la giornata, così variare un po' me. Oppure un bel camper tenendo in giro Maralondo, via, ahi. E sei tranquillo anche. Sì, anche, ogni giorno, magari oggi cosa ne so. Ah, è bello il camper, è una cosa bellissima, a me mi piace. Cosa adesso oggi vado a Monza, domani scendo a Villa Simius per dire, e mi sto lì e ci sto qualche un paio di giorni. Domani vado da un'altra parte, vado a Valedoria e ci sto un paio di giorni. È bello anche così, No, no, niente, da tutta altra cosa. Non dico tutto il mondo, ma girarmi l'Europa tutta, capito? Francia, Germania, Spagna, Belgio, Jugoslavia, tutte le zone là, poi Irlanda, Inghilterra, Finlandia, Norvegia, Svezia, tutto, quello è bello, andare all'estero, cose che non hai mai visto, capito? Sì. Il mio sogno, nel cassetto sono uno però, sento andare in America, la Grande America, New York. Pensaci, quando ti danno, pensaci, quando passerà pure tutto questo casino. Pensaci, magari si può fare. E il capo, purtroppo questo coronavirus andava a rompere il cazzo, raga, per carità. È un macello, troppa gente, casina, frutti, no? Però è che li mette la mascherina, poi dire, no? Questo no, la vedi raggruppati, senza mascherina, scesa. I bar li avrei tutti chiusi, arrivati a questo punto, tanto, un casino è sempre tipi. Niente, gente che se ne frega, troppa gente sta morendo, sa se dici che è un casino, io perché forse non lo so, faccio lavoro a casa lavoro, nei paesi da parte all'altra, però il casino per me sa se non lo vedo perché non ci so, quindi lo sento dire dagli altri, capito? È un casino, tu anzi sei più nella città per il lavoro che fai e quindi molte cose le vedi. Io un giramento di coglioni, faccio per carità, ma che tante cose non sono neanche attendibili, un po' di flauri bisogna pure, non è tutto quello che dicono neanche. Perché no, non è vero, cioè, sono che c'è anche che cazzo di tamponi non sono neanche tanto attendibili, immaginiamoci se detto da loro stessi, da gente che ci lavora, per carità. Ma io ho sempre detto questo, e ne sono convinto, ne ho la certezza. Per me questo coronavirus non esiste. Hanno nominato coronavirus per non allarmare la popolazione mondiale. A chi un muro di infarto, coronavirus, muore incidente, coronavirus, muore tumore, coronavirus, tutto coronavirus. Il mio pensiero è stato sempre uno dall'inizio. Per me l'ISIS si è rotto le balle, ha buttato un'arma batteriologica nell'aria e sono cose sempre grandi, capito? Per allarmare tutta la popolazione mondiale sono messi tutti d'accordo, i capi di Stato, diciamo così, messi d'accordo con i dottori, e quindi devo dire così, a chi a me mai un virus che prima o poi muori, ma lì c'è sempre vivo, anda e torna, ma è un casino, quindi per me è nell'aria. Ma per dirti che è venuto dalla Cina, secondo me ne ha fatto qualche coglionata, qualche batto furioso e chissà come ci sono andate le cose. Cina, quattro è passato tutto, non si sente più niente, non sembra una cosa un po' strana. Ma dice questo coronavirus, corona perché ce l'ha formato la corona, sono tanti virus. E c'è la SARS, c'è mezzo la DS, poi c'è dentro un sacco di malattie, queste micidiali proprio. E non riesco a domandarlo praticamente, capito? È una cosa che... Allora, non è che in Cina il laboratorio è scappato questo virus, non aveva niente, sono cazzate. Io ribadisco sempre, l'ISIS, niente di strano che l'abbia buttato in Cina, perché no? Ti spiego, in Cina sono miliardi di cinesi, i cinesi girano tutto il mondo, dove mai messo i cinesi? Non è come il senegalese, l'italiano, il russo, no? È raro che le trovi, i cinesi le trovi in tutte le parti, e siccome è una popolazione molto vasta, hanno visto che viaggiano spesso in tutto il mondo, quindi buttato lì, contagiato qua e comincia a contagiare una parte all'altra, tutte le nazioni che hanno, contagiano tutti. Questo è più plausibile di questo coronavirus. Sì, ciao ragazzo, magari so prendi l'uovo, ma poi non è neanche tanto così. Magari tante cose non sono attendibili. Dici che negli Stati Uniti non sono tanti malati, cazzo, ma questa cosa non finì mai. Dico che sta essere il casino, eh. È un grosso razzetto, non si capisce più nulla. Ma che continente, poveraccio? Anche tu non ti capisci molto, No. Ci stanno nascondendo molte cose, non ci dicono niente. Fatto sta che qui sono un sacco di italiani senza trabaglio e senza niente. E vabbè, anche dentro di fuori, con chi sta merda. Si stanno dando la colpa uno con l'altro. E sicuramente più di più nulla. Cioè, non se ne comprava né ci dà questa cosa delle discoteche. Cioè, i casini d'estate l'hanno fatto, chi è venuto qua in Sardegna l'hanno fatto, perché se ce l'avevamo stati solo noi per quest'anno, i casini non sarebbe successo, invece hanno fatto entrare carne e porci, hanno fatto entrare. Ma per carità, ma di cosa cazzo vuole imbavendare che c'è? Cioè, ma c'è la soffiglia di consolina. Cioè, prima il signor Conte si è rivolto al TAR, il TAR gliel'ha accettato, perché non voleva liberalizzare Solinas. A parte la piglia con Solinas, ma cosa si dice? Purtroppo lo sbaglio l'hanno fatto sempre anche gli inizi sardi, perché hanno fatto sbarcare questi pezzi di merda dalla Lombardia, che sono venuti in Sardegna per la seconda casa, perché là c'era già iniziato il casino. E sempre venivano senza controllarle né nulla, via, niente, entrava, contagio. Se non loro erano tranquilli, capito? Invece no, apri bocca tra frontiere, tu non entri più, la nave, tu non attracca qua, avviati. Ecco, invece no, è casino purtroppo, gente che viene. Non avete fatto sbarcare nessuno, dimmelo di voi. Sì, no, non doveva entrare nessuno, ma infatti, i pochi che dovevano entrare devono fare una quarantena, visitati al massimo, come aveva detto Solinas. Invece no, si è rivoltata la pagina di Riguglione, però, il signor Conte. E gira di Riguglione a Solinas, se l'ha fatto indagare e tutto, ma cosa vuoi? Cioè, se l'avrebbe fatto come voleva lui, non sarebbe successo manco niente. Magari che contagio ve l'ha dato, ma non sarebbe stato così. Cioè, non sarebbe stato così, ma la cosa sarebbe stata più controllata, perché non sarebbe entrato più nessuno. Invece parlava appunto d'ora a migliaia di sbarchi. Cioè, ma vaffanculo. Purtroppo. Conte l'ha messo esattamente il PD, c'entra niente, l'ha messo Di Maio. Di Maio per avere i voti ha fatto un reddito di cittadinanza, ha un bel ieri mandrò, infatti non si altro neanche cercarsi lavoro. Hanno detto che ti cercavano lavoro loro, balle. Sono 3 anni che sono indietro di là, e la ieri poveraccia che io l'avevo ai pensionati che prendono poca pensione, vedi? Uno che drogati, che ne vedo molti, io che non vado a travagliare se mi smesso la droga, niente che daccio, poi lascia perdere. È un vizio brutto che ha dato. È lavoro e pizzo di prima non ce n'è. No. Mi si piazzi. Io quando vado in pensione oggi sono una decisione, me ne vado fuori all'estero dove sto bene, con il sud della pensione, mangio in ristorante, dormo in albergo e mi faccio a media. In Italia pago troppe tasse, io mi zibuccio. Se ti conviene fai così, te ne vai come hanno fatto certi a Santo Domingo, che ci sta da Dio. Molti hanno fatto così, sono andati sotto un domingo, che vivono con la pensione, ma vivono bene veramente. E qua intanto, paghiamo troppe tasse. Tu pensa che ogni mese ti tolgono su delle tasse, a fine anno ti fanno il conguaglio, ti cavano a fine anno. Quando fai pensione ti danno la pensione in base allo stipendio dell'ultima busta paga meno il 20% e so a fine anno. che ti mutano, senza ridursi a tumulire gli altri il 60%, anche di Dan Bugatti. La mazza di Vivaria, però di cadere in pensione, si prendono i vitalizi. Se dovesse morire la mazza di Nevaria, lo passa la moglie e i figli, capito? Invece l'uomo purtroppo morrebbe il mio marito, la moglie poi domani chiude gli occhi e figlio di altri nuda. Fare un po' una cazzata, se io ho fatto due o tre appartamenti e voglio donare a mio figlio, devo pagare le tasse. Ma io ho già pagato le tasse per comprarmi una casa, ho pagato l'IVA e tutto quanto. Purtroppo il governo mangia troppo, e allora per quello bisogna scappare. Ma per carità, o ti vuoi fare una vita modesta, così normale, tranquillo, o se no, vabbè, una volta che sono in pensione, ti piglia la pensione. E se poi vuoi vivere bene di lusso e tutto, vuoi fare una cosa di lusso, allora devi scappare per forza. E molti ci sono fuggiti, minchi, si bagli, si cucci, stanno vivendo. Da Dio, stanno vivendo bene, bene, bene, bene. Sì, l'ho saputo, sto fatto. E infatti te l'ho dominato. E tu guarda, a volte ci pensi e tu dici, va, aspettiamo, quando sarà il giorno cruciale della pensione. Quindi un biglietto aereo sono andato, vedi la luce, capito? E ma arriviamo a quello, dai. Non si può più stare qua in Italia. Io mi vergogno a essere italiano per come stanno comportando. E mentre l'esempio di Hitler che si comunitare, che mangia di nata Eti, la mazza di Nevaria. Andò bene, beh, a tu. E siamo divertiti un po' di passaggi. Ci siamo detti più del meno. Poco fatto le sbadigliando, ormai ti vedo buio andare, un sonno che fai, sei stracco. Capirai, cioè, il sogno lavoro che fai non è, diciamo, leggero, fregatene, capisco la stanchezza durante il giorno. E io domani mi alzo lo stesso posto alle 5, che domani devo andare al ghiero, andare. Ok, tu vai, se sentiamo la prossima, un po' più presto così, ci facciamo altri passaggi. Ti auguro più bel 144, la terza via, stammi bene, e grazie per il questione. Alla prossima, ciao a tutti. Capo, dai, buonanotte Tony, mi ha fatto piacere questo questione. Ce la recensiamo alle prossimine, dai, buonanotte. Ok, d'accordo. Ciao, buonanotte anche eventuale ascoltori. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. E buonasera a tutti i romiti, Zarana. E poi c'è la finesia nei ascoltori. Non è un gibitotto, se non l'abbiamo incubiato, capo, chi c'è e chi non c'è. E vabbè, dai, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.